Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Così la mattina della partenza, al luogo dell'appuntamento davanti al portone della Silvani, si presentarono nell'ordine i ragionieri Colzi e Mughini, Calboni, che spacciava spudoratamente per camper una vecchia ambulanza del Fate Bene Fratelli. Arrivò poi Filini, che aveva risolto il problema con un autoblindo modello Ella Lamei. Siete in partenza? Partirete a breve? Buongiorno da Nicoletta. Ne faremo poche e dureranno poco, ma verranno tempi migliori. Ma nel frattempo impariamo a sfruttare al massimo i vantaggi che una vacanza, anche breve, sa regalare. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare. Oggi vi porto al mare, insomma, sognare non costa nulla, no? Allora, e se al mare ci andrete davvero, magari per il prossimo weekend, o se al mare avete la fortuna di viverci, chiamatemi, perché oggi con i consigli dei nostri esperti faremo un tuffo, anzi un bagno, che dico un'immersione totale nel benessere. 800 24 0024, chiamate il nostro numero verde, rispondiamo. Potete come sempre mandarci un messaggio al 349-238-6666 e seguirci su Facebook e su Twitter. Intanto saluto il dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dottore, ha preparato la borsa, telo, ciabattine, occhiali da sole, maschera, pinne, crema solare, ci ha messo tutto? Stop, no, niente di tutto questo, però il collegamento non poteva venire da una città migliore. Sono a Napoli per un convegno sull'obesità organizzato dall'università, dalla professoressa Anna Maria Colao, e chiaramente da Napoli non si può che parlare di mare, ci mancherebbe altro. E poi si farà un bagno, no? Ma veramente oggi la giornata non è delle migliori, comunque vedremo di compensare. Però invece quello che le volevo dire, questa cosa bellissima del mare, ma sa che il mare in fondo è quasi nei nostri geni, perché noi tutto sommato abbiamo un'affinità dal mare, siamo venuti nel mare, ritorniamo, perché quando galleggiamo all'interno di quest'acqua salina che ci tiene un po' sospesi, insomma ci fa ripensare a quel liquido amniotico nel quale ci siamo sviluppati, ed è una cosa particolarmente bella. E allora ecco, questo può essere un motivo per recuperare nei giorni di vacanza delle vacanze intelligenti, delle vacanze brevi ma che servono per la nostra salute. Avete voglia di mare, di tornare al mare? 800 24 0024. Ti comunico ufficialmente che io quest'estate bacerò. Si chiama Adelmo, è di Orbetello e si occupa di pulire le piscine. Accidenti, quante ne ha? Una sera incontrò un ragazzo gentile. Le piscine degli altri, lo fa di lavoro. Benvenuta, mitica estate del mio primo bacio. Ma che bello, eh? Molte storie sono nate, nascono e nasceranno in vacanza al mare, ma noi, ahimè, oggi non parleremo di cuore. Se volete potete parlarne voi, ma di acque, alghe, aria, sabbia, perché sono questi gli ingredienti che fanno del mare una straordinaria e naturale riserva di salute e di benessere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale e docente all'Università di Pisa e di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Professore, parto da lontano. Euripide nel V secolo a.C. scriveva: il mare guarisce le malattie degli uomini, e oggi la scienza lo conferma, ma aggiunge all'azione curativa dell'acqua anche quella preventiva. Beh certo, ormai sappiamo benissimo, e questo è documentato anche da lavori scientifici molto seri, che il mare produce salute, ma il mare produce salute attraverso una scienza medica che si chiama talassoterapia, una scienza conosciuta fino dall'antichità, ma che soltanto negli ultimi tempi ha trovato una validazione scientifica nel mondo, anche nel mondo accademico e nel mondo universitario. Quindi l'azione è multipla, è curativa, ma è, come si diceva un attimo fa, è anche l'azione preventiva, è un'azione straordinaria, soprattutto per quelle prevenzioni che noi definiamo prevenzioni secondarie o terziarie, cioè quando il sintomo, quando la malattia, quando insomma il problemino è già iniziato, dà dei segni, sia pur minimi, allora lì è il momento di cominciare a fare prevenzione secondaria. Mi riferisco per esempio alle patologie croniche, all'artrosi, a determinate malattie della pelle oppure a determinate malattie del sistema circolatorio venoso e linfatico. Ma è proprio lì, quando ci sono i primi sintomi, intervenire con delle cure naturali, perché noi occidentali andiamo a cercare magari in Oriente il bello delle cure cosiddette naturali senza l'uso dei farmaci, ma ci dimentichiamo che la prima cura naturale è occidentale, la prima cura naturale sono le terme, sono le acque, sono la talassoterapia, quindi acqua, fanghi, sabbia, clima. Che sono, come diciamo spesso, professor Bonsignore, la medicina tradizionale dell'Occidente. Il dottor Gargiulo diceva che insomma abbiamo un po' di mare nelle vene e infatti a proposito di legami, il mare ha una composizione simile al plasma, è vero? Sì, è vero, è verissimo. Questo un biologo francese, addirittura ai primi del Novecento, il dottor Quinton, riuscì a dimostrare una similitudine eccezionale tra il plasma marino tra il plasma umano e l'acqua di mare. Tant'è che curò molti cari reduci dalla prima guerra mondiale con gravi problematiche, addirittura con delle trasfusioni, con delle somministrazioni parenterali di acqua marina ovviamente trattata, ridotta a uno stato sodico compatibile con il nostro organismo, le trattò con questo sistema. Quindi c'è una notevole affinità tra il plasma umano e l'acqua marina, che poi tra l'altro è l'acqua minerale più completa in natura. Sì, perché è ricca di magnesio, zinco, sodio, potassio, rame, ferro, bromo, calcio, me ne sono segnati alcuni, fosforo, iodio. Potrei continuare. Non ce la facciamo a dirli tutti, perché contiene ben 96 elementi della famosa tavola di Mendeleev, quindi è un'acqua minerale ricchissima, dicevo appunto la più completa in natura, che se riscaldata e se opportunamente usata è in realtà una vera e propria acqua termale. Quindi possiamo fare anche quando andiamo per una giornata, un weekendino, una vacanza breve, la crisi accorcia un po' le nostre vacanze, ma noi staccare un po' la spina ci fa bene, possiamo approfittare proprio di una passeggiata in riva al mare per fare una sorta di aerosol, un microsol marino che giova a tutti. Ma noi sappiamo benissimo che il clima marino ha degli effetti straordinari e positivi sul nostro organismo, anche in pochi giorni, anche per poco tempo, possiamo veramente trarne vantaggi. Lei faceva riferimento a quella che è una passeggiata, una respirazione guidata, noi la chiamiamo passeggiata ionizzante, ed è una cosa molto semplice che possiamo consigliare anche a tutti i nostri ascoltatori. La mattina presto si va sulla linea di battigia oppure vicino al mare, si passeggia con almeno 30 minuti, 40 minuti, tutto dipende dalla propria corporatura e dalle proprie capacità motorie, ma generalmente 30-40 minuti sono più che sufficienti, e si fanno delle situazioni dopo 5 minuti di passeggiata ci si ferma e si fanno i semplici esercizi respiratori che conosciamo tutti, allargare le braccia e inspirare profondamente pieni polmoni. Quindi 5 minuti di passeggiata, un breve break con esercizi respiratori e così via fino a un tempo di 30 minuti. Questo si chiama passeggiata ionizzante perché noi riusciamo a incamerare, recepire, prendere, respirare a pieno polmoni innanzitutto l'aerosol marino, che è ricco di sali, minerali e di ioni che sono sottratti all'acqua, no? Dal vento e dal moto ondoso, ma soprattutto si respirano e si assorbono in conseguenza gli ioni, in modo particolare gli ioni negativi, che hanno un effetto straordinario sulla ventilazione respiratoria, sul sistema immunitario e anche sul benessere, perché si possono avere delle dimostrazioni sulla modulazione della serotonina e di neuroormoni. Quindi la passeggiata ionizzante e il clima marino può dare dei vantaggi anche per periodi brevi. Dottor Gargiulo, spesso quando si va dal medico, soprattutto in questo periodo dell'anno, e se il medico è simpatico e accogliente, si parla anche di vacanze. Sarà capitato vero anche a lei, vero? Sì. Verissimo, effettivamente si parla di vacanze, ma anche a volte si chiede consiglio sulla località di vacanza. Mi capita abbastanza spesso. facciamo un po' qualche esempio che ci può essere di aiuto. Ad esempio, le mamme in gravidanza, le donne in gravidanza mi chiedono se durante il loro stato di gravidanza possono andare al mare, possono prendere il sole, possono godere di questo soggiorno marino. Tranquillamente, bisogna rispettare gli orari che poi impareranno e utilizzeranno con i loro bambini, che sono quelli di stare al mare nelle ore un pochino più fresche, quindi evitare la fascia oraria che va da mezzogiorno alle 3, che è l'ora pesante per il mare, ma lì fa benissimo stare sulla spiaggia, respirare quest'aria, come diceva il professor Bonsignori, camminare dentro l'acqua, con l'acqua che lambisce le gambe, e quello è molto utile. A volte anche gli ipertesi mi chiedono notizie e informazioni, dice ma il mare, il caldo non mi abbasserà troppo la pressione? In realtà questo non succede, perché il caldo che abbiamo in città è più forte di quello che possiamo avere al mare, quindi anche per chi soffre di ipertensione il soggiorno marino è consigliabile. Un'altra accortezza è quella di proteggersi però dai raggi solari. Anche qui sfatiamo un luogo comune: non è che i raggi solari del mare siano più dannosi, è la parte scoperta che è maggiore rispetto alle città, o forse dovrebbe esserlo, perché si vedono delle cose in città oggi che ci fanno ripensare a questo luogo comune, ma insomma dobbiamo coprire con le creme solari, proteggere con le creme solari parti che normalmente non sono esposte. Con un po' di accortezza io direi che il mare è consigliabile a tutti quanti, senza nessuna preclusione. E c'è mare e mare, ne parleremo tra poco. Il mare, vero professor Bonsignori, non è tutto uguale. Il Mar Ligure ha delle caratteristiche differenti rispetto a quello adriatico, quindi raccontateci in quale mare vi tufferete o pensate di tuffarvi all'800 24 00 24. Intanto io vado a sentire Maurizio, che mi chiama da Milano. Maurizio, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno. Io ho semplicemente una cosa, la mia idea è quella di andare a vivere sul mare, nel senso che io intendo prendere una barca a vela e andarci a vivere. Maurizio, bravo, che bella idea. Quando? Quando farà? No, ma è un sogno o lo si sta già organizzando? No, è una cosa che sto organizzando, perché mi è capitata una cosa molto brutta e che ha sconvolto la mia vita, nel senso mia moglie è andata in coma vegetativo. E io all'alba dei 70 anni mi devo reinventare la vita, quindi ho deciso, l'unica cosa che mi alleggerisce l'anima è il mare, e quindi ho deciso di andarci a vivere col mio cane. Quindi mi sto comprando una barca a vela piuttosto grande, da 15 metri, e andrò in giro per il mare. Questo è quanto. Volevo sapere se ci possono essere delle controindicazioni, non so, l'artrosi, cose del genere, ecco. Professor Bonsignori, dottor Gargiulo, una scelta di vita dettata da un cambiamento forte nella vita, ma stiamo in barca, dottor Gargiulo. No, direi che senz'altro controindicazioni non ce ne sono, l'importante è uno che sappia portare bene la barca, quello è fondamentale, e poi che non soffra di mal di mare, perché in realtà l'artrosi non è che peggiora stando in barca o con quel luogo comune che l'umidità fa venire l'artrosi, non è vero niente, un po' di attenzione nello svolgere un'attività. Certo, 70 anni una barca a vela, c'è un po' di impegno fisico che bisogna tenere presente, però ecco, io non penso credo... Il mio cane in barca a vela secondo me non ce la farebbe proprio. Così lungo, ma non me lo vedo. Professor Bonsignori, spesso da una vacanza al mare, e poi parleremo anche di trattamenti che vengono fatti proprio sfruttando il clima marino e l'acqua marina, cerca di ottenere il massimo vantaggio, sia in termini di prevenzione che, come dicevamo, di cura. Ci sono delle malattie, delle patologie che al mare in qualche modo regrediscono e migliorano. Penso ad esempio alle malattie della pelle. Non solo, Nicoletta, anche le malattie allergiche hanno una forte indicazione per frequentare il clima marino, perché il clima marino ha un'elevata concentrazione di ossigeno e una bassissima concentrazione di pollini, quindi anche le allergie. Le malattie della pelle hanno un notevole miglioramento, perché sappiamo benissimo che la semplice dermatite seborroica, che è una malattia molto diffusa, basta che ci sia un'esposizione al sole graduale, come diceva il dottor Gargiulo, ed attenta, che abbia un miglioramento importante. Ma anche patologie della pelle più importanti, più serie e purtroppo anche con poche cure farmacologiche efficaci, come la psoriasi, è pensata una malattia che colpisce più del 2% della popolazione, trova grande rilevamento semplice esposizione al sole marino, all'acqua marina, e poi ovviamente se sono aggiunte dei trattamenti talassoterapici il vantaggio è nettamente migliore. Quindi c'è un indubbio vantaggio su alcune patologie croniche che trovano un vantaggio enorme a frequentare un clima marino, un ambiente marino per qualche giorno. E per quanto riguarda la pelle, naturalmente l'azione che abbiamo sulla pelle del sole e dell'acqua marina è un'azione particolarmente efficace. Basti pensare all'azione antinfiammatoria, deterrente, antibatterica del sole, e basti pensare anche all'azione sempre antinfiammatoria che può avere e decongestionante che può avere l'acqua di mare. Quindi è un'azione anche di riidratazione della pelle e anche un'azione di rimineralizzazione della pelle, quindi un'azione anti-età. Attenzione, sì, però, attenzione. Aggiungo una cosa, sì. I raggi solari, in modo particolare quelli B, se sono i responsabili di alcuni meccanismi fisiologici, qualche volta anche patologici, ma sono responsabili dell'ispessimento e quindi anche dell'invecchiamento cutaneo, una troppa esposizione solare. Sì, quindi, ma qua siamo preparati perché a essere benessere abbiamo parlato tante volte di come preparare la pelle a lasciarsi baciare dai raggi del sole, e i nostri ascoltatori possono come sempre ritrovare le puntate in archivio. E mi scrive Salvatore: quando in passato non sono riuscito ad andare al mare in inverno ho sofferto di più i mali di stagione, tanto che le mamme cercano di portare i bambini al mare, spesso specie i bambini un po' gracilini, dottor Gargiulo. Sì, esatto, era un'abitudine delle nostre mamme che non sarebbe opportuno non perdere quei bambini che in inverno soffrono di malattie virali ricorrenti, questi raffreddori, questi mal di gola. L'aria di mare è un'area ricca di iodio, e lo iodio sappiamo che ha una grossa azione disinfettante, quindi aiutare queste tonsille magari un po' più gonfie con un respiro, con un rimedio così naturale, io direi che è senz'altro assolutamente consigliabile. E ancora una cosa molto buona, velocissima, è quella di far inalare, respirare quest'acqua di mare. Quando l'acqua di mare è pulita, insegnare ai bambini a respirarla col naso, a mandarla nel naso. All'inizio darà qualche colpo di tosse, sembra quasi di soffocare, ma in realtà ha un'azione lenitiva e curativa sulle mucose nasali che è eccezionale. Abbiamo in linea con noi Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno, lei mi vorrà perdonare per il tenore e la qualità del mio intervento. Però, prescindendo che possa essere d'accordo, anzi siete d'accordo, che sul beneficio derivante dall'inalazione, cioè camminando lungo la spiaggia, come è stato detto da uno dei suoi interlocutori, solo che però a volte sarebbe prudente, secondo me, osservare quello che è il rigore scientifico. Perché affermare che gli ioni vengono strappati marina. Gli ioni vengono, mi scusi Marcello, non la sento bene, gli ioni vengono? Non so, purtroppo, il suo interlocutore in un intervento un attimo fa ha detto che gli ioni vengono contenuti nell'acqua di mare, che sono tantissimi ovviamente, vengono strappati all'acqua marina. Ora, per carità, forse l'esempio che è stato voluto, che è stato portato, voleva semplicemente essere un suggerimento fantasioso, ma non è assolutamente così. Gli ioni dall'acqua marina non possono mai emergere perché sono talmente solvatati che è impossibile. Sì. Quindi noi quando respiriamo, cosa respiriamo, Marcello? Ecco, questa è l'osservazione. In realtà noi possiamo affermare che se esiste la nebulizzazione dell'acqua marina, ad esempio dovuta all'infrangersi dell'onda sullo scoglio, cioè praticamente microparticelle di acqua vengono disperse nell'atmosfera, e a questo punto quelle microparticelle d'acqua effettivamente possono contenere tracce di sali, ed è normale che sia così. Quindi quando ci sono, Marcello, mi scusi, Marcello, quando ci sono quelle belle mareggiate, ci sono quelle goccioline, questa è una precisazione che vorrei, Marcello stia lì, una precisazione che vorrei commentare col professor Bonsignori. Ma Marcello ha ragione, perché nella esposizione precedente era un'esposizione più d'immagine che scientificamente reale. Infatti noi respiriamo delle microparticelle di acqua marina che sono ricche di sali minerali e di ioni, che sono sottratti appunto all'acqua marina dal vento e dal moto ondoso, non soltanto dallo sbattersi dell'acqua sugli scogli, ma anche dal vento. Queste particelle, se contengono poi degli ioni che hanno delle caratteristiche, dei diametri particolari, addirittura se sono dei diametri sotto, sono nebulizzate, sono a diametro sotto i 3 micron, arrivano addirittura fino agli alveoli polmonari, ma a noi in prima fase interessa invece l'effetto che hanno nelle prime vie respiratorie. Poi gli ioni negativi, che sono quelli in realtà per noi positivi, sappiamo che si formano nella ionosfera per effetto delle radiazioni solari sugli atomi di ossigeno e di azoto, ma nell'atmosfera questi ioni si formano anche con fenomeni naturali. Ma in sostanza cascate, lei e Marcello, che siete mi sembra di individuare in Marcello, che anche lui è un tecnico, cosa ci dite? Passeggiate sulla battigia in riva al mare, ci fa bene, certo. Abbiamo questa Marcello, respirate, d'accordo anche lei? Acqua. Possiamo respirare quest'aria un po' che ci ricarica? Quando c'è il mare mosso, meglio. Quando c'è il mare mosso, benissimo. Io quando ho parlato di nebulizzazione, infatti ho voluto riferirmi a microparticelle che rimangono sospese nell'aria perché sfuggono alla legge gravitazionale. Per quanto riguarda la formazione degli ioni negativi nell'atmosfera, no, non ci siamo proprio, perché l'acqua di mare contiene sali che sono tutti ionizzati, ma prescindono dall'azione dei raggi ultravioletti e dei raggi solari. Allora, è un'informazione non corretta. Lei dice con informazione non corretta, a me quello che serve capire, mandare anche questo messaggio agli ascoltatori, che l'aria di mare ha un effetto benefico per la nostra salute, per il nostro benessere, come suggerisce Marcello. Possiamo fare questo microsol, questo aerosol, soprattutto quando ci sono queste goccioline piccolissime che ci sembra proprio quasi di vedere, di respirare. Marcello, ho colto? Va benissimo, quando è il mare mosso. Quando è il mare mosso, Marcello suggerisce il mare mosso. Grazie a Marcello per essere intervenuto. 800 24 00 24. Se pensate di andare al mare, avete un piccolo dubbio, mi farà bene, mi farà male, cosa migliorerà, come posso fare ad avere la massima resa da un soggiorno piuttosto breve al mare? E se volete soprattutto conoscere i trattamenti della talassoterapia, che trasforma quindi l'ambiente marino, mare, sole, le spiagge, il clima in una vera e propria beauty farm naturale, non avete che da chiamarci all'800 24 00 24. Abbiamo Vilma da Mantova, buongiorno Vilma. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti intanto, grazie. La mia domanda, se possibile, è questa. Allora, io sono partita 10 giorni fa per la montagna che avevo un leggero dolore al nervo sciatico e camminando in montagna col freddo perché eravamo a 0 gradi e giù di lì, niente, si è acutizzato e abbiamo pensato, adesso abbiamo ancora una decina di giorni, di portarci al mare. Volevo chiedere a uno dei suoi ospiti. Dottor Gargiulo, passerà? Questo vuole chiedere Vilma? Probabilmente no, ci vuole la sarà sfera. Un buon aiuto. Quindi, probabilmente non basterà, se ha avuto un dolore al nervo sciatico, intanto io direi un antinfiammatorio per aiutare a far passare il dolore è consigliabile, ma poi soprattutto se è un dolore occasionale non gli diamo peso, se è un dolore che si ripresenta magari fare un accertamento per vedere, sento dalla voce che Vilma è giovane, per vedere se non ci sia un'ernia discale. Perché il dottor Gargiulo sa essere sempre così garbato, gentile, eh? Sento dalla voce che è molto bravo, dottor Gargiulo. La so io che, però, so che lei deve scappare, salutare. Io la saluto, buona Napoli, e invece noi rimaniamo insieme. Grazie dottor Gargiulo, noi ci sentiamo presto, voi restate con me, mercati, meteo, poi di nuovo insieme, tutti al mare, anche dentro il mare. Essere e benessere. Aria, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Non solo sirene e pesci, ma anche squisite verdurine. Si trovano in fondo al mare. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Massimo Gualersi. Buongiorno dottor Gualersi, bentornato e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie mille. Cardiologo? Ecco, sì. Posso ricordare sì. Il suo libro che mi piace? Sì. È autore di Super Salute e aggiungiamo anche l'altro autore che è Claudio Rinaldi. Allora, dottor Gualersi, alghe. Sì, squisite verdurine, diciamo, magari squisite proprio no, almeno non per tutti, però stupefacenti sì. Stupefacenti sia per l'ambiente, in quanto contribuiscono molto a mantenere questo ecosistema, e non solo quello marino, anche quello terrestre, producono la maggior parte dell'ossigeno di tutto il pianeta, molti non lo sanno. E anche dal punto di vista stupefacente alimentare, perché è rappresentato, confrontate con le piante terrestri vivibili, quelle che riusciamo a mangiare, le alghe sono sicuramente più ricche di proteine, ne contengono fino anche al 35% di carboidrati complessi, che sappiamo aiutano a mantenere bassi livelli di insulina quando li mangiamo, di sali minerali, di oligoelementi, abbiamo già parlato dello iodio e non solo iodio. Ad esempio all'interno delle alghe troviamo una vitamina molto importante che normalmente non si trova negli altri vegetali, che è un po' il tallone d'Achille per chi segue un'alimentazione vegetariana, che è la vitamina B12, quindi è un ottimo supplemento per chi decide di affrontare una dieta vegana, quindi priva o comunque di prodotti animali o di carne, e quindi può trovare in questi elementi la vitamina B12. In più abbiamo... Dimmi Nicoletta. No, sentito, ho fatto... Ma sono sicure? Così rispondiamo agli ascoltatori. Siamo sicuri da dove vengono, che non sono inquinate, che sono, che mi metto in tavolo, nel piatto, una verdura che mi dà qualcosa in più senza togliermi nulla? Ma diciamo che sicuramente oggi le troviamo, per rispondere prima dove li troviamo nei vari supermercati, oggi sono state sdoganate anche nei supermercati di largo consumo, sicuramente nelle arboristerie e nei negozi biologici. Posso solamente dire che la maggior parte di quelle che mangiamo noi qua in Occidente non vengono dal Giappone. Oggi è stato, sappiamo che con quello che è successo anche Fukushima, diciamo, le radiazioni, quindi anche le alghe le hanno assorbite, quelle del Giappone sono parzialmente inquinate, ma dobbiamo sapere che quelle che mangiamo noi provengono principalmente dalla Francia, dalla Scandinavia, dall'Irlanda, e quindi che vengono da mari teoricamente più pulite. C'è da dire che quando il mare è inquinato, tutto ciò che abita il mare, compresi i pesci, lo sono, e così come nel mondo animale terrestre, sicuramente i vegetali sono quelli che si difendono meglio e assorbono meno, diciamo, l'inquinamento, tenendo anche conto che le alghe hanno un altro componente fondamentale, che è questo acido alginico, i cui sali sono importanti anche per la detossificazione del nostro organismo. Quindi quando le mangiamo in realtà aiutano a depurare il nostro organismo, quindi eventualmente ci tolgono anche quei metalli pesanti, quelle sostanze tossiche che eventualmente possiamo mangiare derivanti da prodotti non troppo puliti o comunque inquinati, non solo provenienti dal mare. Li possiamo mangiare in tanti modi, ad esempio in insalata, nelle zuppe. Nelle zuppe. No, sostanzialmente le troviamo in forma essiccata, diciamo che per porzione 3-4 cm di alga secca da aggiungere alle nostre zuppe, alle nostre verdure, diciamo le nostre insalate, possono essere una buona dose. Ne possiamo ricordare... Ecco, perché ce ne sono tante di alghe, ci dà qualche alga che magari, sottolineando se esiste, un effetto particolare? Sì, diciamo che raggrupparle tutte insieme diventa difficile, appunto perché sono tantissime varietà. Quelle più famose, più conosciute, anche quelle più trovabili poi nei nostri supermercati, sono ad esempio l'alga kombu, no? Che è molto utile per depurare, quindi abbiamo detto che è ricca di acido alginico, quindi viene utilizzata per depurare il fegato, no? I reni, e quindi anche per togliere quelle sostanze tossiche, eventualmente dopo aver fatto anche terapie con farmaci, con antibiotici, possono essere d'aiuto per ripurificare il nostro organismo. L'alga wakame, che forse è quella un pochino più conosciuta perché stimola un po' il metabolismo, è quella che contiene più di tutti iodio e anche un po' di vitamina B12, quindi viene utilizzata, proprio i vegetariani la conoscono bene, aumenta un po' il metabolismo e contiene appunto vitamina B12. L'alga, le ultime due, diciamo quelle un pochino più famose, l'alga agar agar, che normalmente la conosciamo perché viene usata anche nei comporre dolci come addensante, però è utile per chi deve dimagrire, perché... Ce lo siamo persi, il dottor Gualerzi. No, vero? Allora lo richiamiamo. Intanto abbiamo già avuto delle notizie sulla kombu, sulla wakame. Ma professor Bonsignori, intanto che andiamo a ripescare in fondo al mare il dottor Gualerzi, avevamo anticipato che il mare non è tutto uguale. Mar Ligure, Mar Adriatico, Mar Tirreno. Scegli il mare anche in base all'effetto che vuoi avere da dal soggiorno. Certo, i nostri mari, magari i mari del mondo, ma anche i mari italiani, sono diversi, sono diversi soprattutto per la costa, per la linea di costa, sono diversi per la differenza di umidità, per la differenza di vento, di ventosità. Quindi per avere una semplificazione, per capire quello che può essere utile ai nostri ascoltatori, soprattutto in base alla temperatura locale, ai venti, alle caratteristiche delle coste, si identificano generalmente due tipi di mare, di clima marino, quindi un clima marino forte che può essere stimolante e un clima marino cosiddetto debole che può essere indifferente o leggermente sedativo. Sì. Quindi ci sono anche due possibili scelte generali che si possono fare per fare una vacanza al mare, quindi scegliere quelle zone dove c'è un clima forte, stimolante, magari se c'è bisogno di una rimessa in forma in seguito a una convalescenza oppure a qualche altro problema di situazione più o meno stressogena, mentre quando c'è più bisogno E dove sono questi mari? Ma i mari con il clima forte, stimolante, eccitante è dove in genere dove c'è molta scogliera, dove ci sono molti venti, quindi penso a una parte della Sardegna, penso alla parte della costa toscana, penso alla Liguria, penso a queste nostre zone dove la ventosità è più forte e c'è una linea di costa molto frastagliata. Però alcune zone come la Toscana o altre possono avere sia un mare più forte sia un mare tra virgolette più debole. Però la caratteristica principale che si può identificare per esempio sulle coste dell'Adriatico è un mare che ha queste caratteristiche da un punto di vista di temperatura, di vento e di costa, che è un clima cosiddetto più debole e attenuato, quindi più rilassante, più riposante, più dedicato a un relax. Spazio subito dopo le informazioni sul traffico alle vostre domande. Forse abbiamo ripescato il nostro dottor Gualerzi. Dottor Gualerzi, stia lì, sì. Adesso la teniamo un attimo sulla barca. Domenico, buongiorno da Roma. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, va al mare lei Domenico? Sì, abbastanza. Che fortunello. Infatti riguardo a questo volevo fare una domanda forse banale, ma la differenza che passa tra prendere diciamo il sole al mare oppure in piscina. Credo che ci sia una grossa differenza, oltretutto poi diciamo stando sul bagnasciuga per le gambe ho saputo che fa abbastanza bene, però volevo sapere più che altro la differenza che possa fare diciamo per le ossa, diciamo se fa bene più il mare oppure la piscina è uguale. Allora il professor Bonsignori è sicuramente di parte, ma professor Bonsignori, piscina o mare? Vale dappertutto, salvo l'altitudine che si può avere in riva al mare oppure se si va in alta montagna cambia un po' questo aspetto. Ma per quanto riguarda gli effetti principali sono gli stessi, l'azione del sole sul nostro organismo. Come diceva anche il dottor Gargiulo all'inizio, al mare c'è un'esposizione ovviamente maggiore, ci si espone di più e quindi si ha più contatto con... Io avrei detto meglio al mare perché l'acqua di mare ha anche un'azione molto diversa, no? Rispetto all'acqua allora, clorata di una piscina. Se si parla, Nicoletta, di effetto del sole sul nostro organismo direttamente, l'effetto è lo stesso. Se poi si sommano tutti gli effetti positivi del clima marino, della sabbia marina, della sabbia, della possibilità di bagnarsi in acqua di mare, allora è certo che ci sono dei valori aggiunti e creano quindi dei miglioramenti notevoli anche per certe patologie. Mi pare che il signor Domenico facesse cenno all'artrosi, quindi certo, sicuramente c'è una Domenico di Aretta me va dal mare. Essere e benessere. E siamo tornati insieme ed è tornato con noi anche il dottor Massimo Gualerzi. Dottor Gualerzi, mi è caduto sul più bello. Kombu, wakame, agar-agar. Sì. Ne manca una, che spesso sì. Noi non crediamo sia un'alga, invece lo è. Sì, in effetti, parliamo della spirulina, in realtà spesso viene preso come integratore un po' senza sapere che questa invece è un'alga molto piccola e ha diversi effetti che vanno bene sia per gli sportivi, infatti molto spesso viene integrata nell'utilizzo degli sport perché contiene molte proteine, è un antiossidante, ma anche per gli ipertesi perché è in grado di far rilasciare al nostro organismo ossido nitrico, che sappiamo che è un ormone che stabilizza la pressione e fa bene al cuore. Quindi direi anche questa di consigliarla un po' a 360 gradi, ma in modo particolare agli ipertesi e agli sportivi. Quindi gli ipertesi possono prendere la spirulina anche se stanno seguendo una terapia, ho capito bene? Assolutamente, sì, non interferisce con i farmaci antipertensivi, anzi facendo liberare ossido nitrico agevola l'effetto vasodilatatore e quindi anche di salute delle nostre arterie. Quindi spirulizziamoci? Sì, direi di utilizzare questa alga molto utile. Poi in realtà ho citato solo gli studi certi perché sono anche in corso molti studi che potrebbero accreditare a questa alga delle proprietà antitumorali e quindi molto più importanti, ma ancora i dati scientifici non ci sono e quindi non li pronunciamo prima dell'esito, ecco. Certo, come il fo. Grazie dottor Gualerzi per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata, buona giornata. A me mi piace il mare. A me mi piace il mare. A me mi piace molto effettivamente. Andrea, buongiorno dalla provincia di Verbania. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Una domanda semplice, magari scontata, magari stupida. È meglio l'area di mare o l'area di montagna? Domande stupide non ce ne sono le risposte che dobbiamo valutare. Professor Bonsignori. L'area di mare ha delle caratteristiche particolari che in parte abbiamo detto, ma anche l'area di montagna ha altrettante caratteristiche che sono sicuramente caratteristiche molto efficaci per il nostro organismo. Basti pensare anche lì alla scarsa presenza di allergeni, ma come potrebbe essere anche ovviamente sul mare. Quindi sono due tipi di aria diversi che hanno caratteristiche diverse, sì. E l'area di mare ha il vantaggio in più, e questo dobbiamo dirlo, ma non è partigianeria, è no, vantaggio io scherzavo, evidente, certo. Che l'area di mare contiene appunto quell'aerosol marino di cui abbiamo parlato, è l'aerosol marino che porta dei benefici straordinari se viene respirato con una certa continuità. Quindi ha un vantaggio in più, ha una marcia in più che in montagna non troviamo, anche se la montagna ha i suoi grandi vantaggi. Certo. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, oh yeah. E il mare diventa una straordinaria palestra a cielo aperto, una palestra acquatica. Per questo in linea con noi abbiamo Silvia Senati, che è responsabile tecnico Acqua Fitness European Aquatic. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti. Allora, sulla battigia si cammina volentieri, spesso per chiacchierare con l'amica. E poi diciamo, abbiamo fatto, no? Mi sono mossa tanto. In realtà noi possiamo proprio usare la battigia e il mare, specie quel tipo di mare in cui si può camminare un po', insomma, che non scendono subito, per fare una sessione di ginnastica. Esattamente, è un'ottima palestra, il mare ci offre veramente un'ottima palestra naturale, potendo sfruttare anche le varie altezze dell'acqua, perché appunto se entriamo con l'acqua alle caviglie, poi man mano entrando arriva alle ginocchia, ai fianchi, riusciamo veramente a fare tantissimi esercizi e a dare beneficio a tutto il corpo. Allora, facciamo una breve descrizione in modo che i nostri ascoltatori che questo weekend andranno al mare possano mettere in pratica i suoi consigli? Ma senz'altro. Io direi che per cominciare potremmo entrare in acqua, camminare con l'acqua almeno fino alle cosce, a metà coscia, e cominciare a scaldarci proprio, ambientandoci anche alla temperatura del mare, con una camminata tranquilla, con passi molto lunghi. Man mano possiamo proseguire, continuare a immergerci fino ad arrivare all'acqua alla vita e grazie proprio anche alla spinta di galleggiamento che ci dà l'acqua, cominciare magari anche a correre senza sovraccaricare le articolazioni degli arti inferiori e anche la schiena. A seguire arriviamo fino all'acqua al petto, con l'acqua al petto, ottimo perché a quel punto possiamo veramente fare tanti esercizi, portare le ginocchia al petto, calciare dentro l'acqua, fare tanti esercizi con gli arti inferiori, spingendo le gambe in tutte le direzioni, avanti, indietro, in fuori, e beneficiare anche di un'attività sicuramente più adatta anche per la cintura dell'addome, per gli addominali. Perché l'acqua intanto ci massaggia, se soprattutto andiamo controcorrente, è un massaggio fantastico. Ma l'acqua ci massaggia anche semplicemente stando immersi e muovendoci, perché noi creiamo delle correnti e dei vortici che sono un ottimo massaggiatore personale durante ogni esercizio. La corrente ci aiuta addirittura andando controcorrente ad aumentare un pochino anche l'intensità dell'esercizio stesso, quindi per chi vuole allenarsi un po' di più, senz'altro lo sfruttare il controcorrente è meglio. il bello dell'app che ci permette veramente di fare tanti esercizi continuando anche a variare il nostro punto di immersione. Piegando le gambe possiamo scendere con l'acqua alle spalle, fare tanti esercizi per la parte superiore, unire le braccia mantenendole tese, spingere con le braccia in tutte le direzioni e eseguire movimenti come le nuotate. In questo modo attiviamo anche la muscolatura del petto, della schiena, delle braccia e delle spalle, alternando anche con esercizi in cui possiamo staccare tutti e due i piedi dal fondo, quindi portare le ginocchia insieme al petto, spingere con le gambe insieme in avanti, cercare di rimanere in galleggiamento, e allora a questo punto gli addominali sono senz'altro un po' più protagonisti rispetto a quando appoggiamo ancora i piedi. Insomma, nell'acqua ne possiamo fare di tutti i colori, e se questo weekend vedete sulla battigia oppure in acqua persone che vi sembrano fare delle cose strane, sapete che quella persona ha sentito il programma di oggi, i suggerimenti di Silvia Senati, che saluta. Stanno facendo un gran bene. Ringrazio Silvia Senati, ringrazio il professor Fausto Bonsignori per essere stato con noi e per averci portato al mare. Grazie professor Bonsignori. Grazie a tutti voi. Grazie. A Carmelo Lauricella in regia, alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Noi al mare, per andare al mare dobbiamo aspettare. Ci sentiamo domani. Essere e benessere.